Il terzo anello, ad alta voce, I mandarini, di Simone de Beauvoir. Traduzione di Franco Lucentini. Henri passava tutte le sue notti nella camera verde pallido. Erano notti appassionate, ma Josette al mattino non cercava mai di trattenerlo. Era discrezione, indifferenza. Non è facile misurare i sentimenti di una donna prodiga del suo corpo e che non ha nient'altro da dare. E io? Finirò per innamorarmi di lei? Si chiedeva Henri. Andando al giornale decise di passare al Bar Rouge. Vincent, La Chaume, Sézénac erano seduti al loro solito tavolo. Vincent s'alzò. «Ti accompagno al giornale», disse, «ho da parlarti». Quando furono usciti dal caffè, Vincent disse: «È vero che il tuo dramma sarà rappresentato in ottobre allo Studio 46 e che hai dato la parte principale alla piccola Bellhomme? Firmo questa sera il contratto con Vernon. Perché me lo domandi?» «Tu non sai probabilmente che mamma Bellhomme è stata rapata e che se l'è ben meritato. Aveva una villa in Normandia dove ha ricevuto una quantità di ufficiali tedeschi. Ci dormiva insieme e probabilmente anche la figlia». «Perché vieni a raccontarmi questi pettegolezzi?» «Non sono pettegolezzi, esiste un incartamento. Ho dei compagni che l'hanno visto, lettere e fotografie che un tizio si è divertito a raccogliere pensando che un giorno gli sarebbero servite. Le hai viste tu?» «No, naturalmente. In tutti i modi me ne infischio», disse Henri indignato. «Non è cosa che mi riguardi». «Senti», disse Vincent, «non andare in collera. Io volevo avvertirti che la vecchia Bellhomme è sospetta, che c'è chi la tiene d'occhio e che faresti una sciocchezza a metterti nei pasticci per amore di quella strega. Non preoccuparti per me». «Va bene, volevo solo avvertirti, è tutto». Proseguirono in silenzio, ma Henri continuava a sentire quelle parole, e probabilmente anche la figlia. Per tutto il pomeriggio continuò a ripetersi quel ritornello. Josette aveva quasi confessato che sua madre l'aveva venduta più di una volta, e del resto tutto ciò che Henri aspettava da lei era qualche notte ancora, e ancora qualche notte, forse. Tuttavia, quando si ritrovò solo con lei dopo l'interminabile pranzo con Vernon, sentiva fino all'angoscia il desiderio di interrogarla. «Vernon è stato chic», disse Josette, «e poi è pederasta, non mi darà fastidio, ho fortuna». «Che cosa fai quando la gente ti dà fastidio?» «Dipende. Qualche volta è difficile». «E i tedeschi durante la guerra non t'hanno dato troppo fastidio?» chiese Henri sforzandosi di parlare con voce naturale. «I tedeschi?» Josette arrossì dal collo alla radice dei capelli. «Perché mi chiedi questo? Cosa t'hanno raccontato?» «Che tua madre ha ricevuto i tedeschi nella sua villa in Normandia». «La villa fu occupata. Non è stata colpa nostra». «Lo so, la gente del villaggio ha fatto correre brutte voci perché detesta la mamma, che magari se lo merita per come è dura, certe volte, ma non ha fatto niente di sporco, ha sempre tenuto i tedeschi a distanza». Henri sorrise. «E poi, se le cose fossero andate diversamente, tu non me lo diresti». «Che cosa credi, dunque?» disse Josette terrorizzata. «Immagino che tu sia stata imprudente, che sia uscita con gli ufficiali, per esempio». «Sono stata cortese, niente di più. Parlavo con loro e qualche volta m'hanno riaccompagnata in automobile dal villaggio fino a casa». Alzò le spalle. «Non avevo niente contro di loro, sai. Erano correttissimi e io ero molto giovane, non capivo niente di quella guerra. Avevo voglia che finisse e basta». Aggiunse rapidamente: «Adesso però so come sono stati orribili, con i loro campi di concentramento e tutto il resto». «Neppure adesso ne sai molto», disse Henri teneramente. «Ma non importa». Nel 43 Josette non era poi così giovane. Nadine allora non aveva che 17 anni, ma non si potevano far confronti. Josette era stata male allevata, male amata. Nessuno le aveva spiegato niente. Aveva sorriso troppo amabilmente agli ufficiali tedeschi quando li incontrava per le strade del paese. Era salita nella loro automobile. Questo adesso bastava a scandalizzare le popolazioni. C'era stato di più. Mentiva. Era così franca e così ipocrita. Come sapere? E con che diritto? Pensò con improvviso disgusto. Si vergognava d'aver voluto fare il poliziotto. «Mi credi?» disse Josette timidamente. «Ti credo. L'attirò a sé. Non parliamo più di tutto questo». Thank you. Il processo del signor Lambert s'aprì a Lilla alla fine di maggio. L'intervento del figlio dovette certo servirgli e poi aveva probabilmente messo in gioco grosse influenze. Fu assolto. Tanto meglio per Lambert, pensò Henri. 4 giorni dopo, Lambert stava lavorando al giornale quando gli telefonarono da Lille. Suo padre, che doveva arrivare a Parigi col rapido della sera, era caduto da uno sportello rimasto aperto. Era in condizioni gravi. Un'ora più tardi, si seppe che in realtà era morto sul colpo. Lambert salì sulla motocicletta senza pronunciare una parola e quando tornò a Parigi, dopo i funerali, se ne restò in casa senza dar più segno di vita al giornale. «Bisogna che vada a trovarlo», si disse Henri. 2 ore più tardi un tassì lo depose davanti alla casa di Lambert. Suonò. Lambert gli sorrise senza slancio. «Ah, sei tu. Sei gentile». «Che felice coincidenza», disse Volange. «Erano mesi che non ci vedevamo». Lambert, che faceva molto orfanello nel suo completo di flanella con la fascia nera al braccio, disse con aria cupa: «Volange, è certo che mio padre non è morto d'una disgrazia. È stato ammazzato». Henri trasalì. «Ammazzato? Gli sportelli non s'aprono da soli, e non si sarebbe certo suicidato proprio il giorno che era stato assolto. Ma saprò chi è stato. Lo saprò». Henri strinse i denti. Era questo che l'assillava da 8 giorni. Questo sospetto. «No», disse a se stesso quasi supplicando. «Non Vincent. Doveva essere stata una disgrazia. È un fatto che ci sono bande d'assassini in Francia», disse lui. S'alzò. «Come sono spaventosi questi odi che non riescono a placarsi». Quando la porta si fu richiusa dietro di lui, Henri disse a Lambert in tono affettuoso: «Su, non restare così a roderti. Fai uno sforzo e vieni con me». Scriassin afferma che un alto funzionario fuggito dall'Unione Sovietica gli ha portato delle informazioni sensazionali, schiaccianti per il regime, naturalmente. E ha suggerito a Samazel che siano l'Espoir, Vigilance e l'SRL a divulgarle. Che valore hanno, però? Gli ho dato un'occhiata, ma non ho modo di controllarle. Il viso di Lambert si animò. «Questo mi interessa», disse alzandosi bruscamente. «Mi interessa molto». Quando arrivarono da Dubreuil lo trovarono solo con Samazel. Gli altri non erano ancora venuti. «Il mio amico Georges», presentò Scriassin. «Georges può parlare in russo e in tedesco. Ha con sé diversi documenti che ora vi riassumerà e commenterà. Di tutte le questioni sulle quali è in grado di gettare una luce terrificante è quella dei campi di lavoro che presenta l'interesse più immediato. Comincerà da lì». «Che parli in tedesco», disse vivamente Lambert. «Tradurrò io». Georges prese a parlare. «Dice», tradusse Lambert, «che dobbiamo innanzitutto ben convincerci che l'esistenza di questi campi di lavoro non è un fenomeno accidentale di cui si possa sperare che un giorno scomparirà. Il programma di investimenti dello Stato sovietico esige delle eccedenze che possono essere fornite soltanto da un lavoro anch'esso eccedentario. Se il consumo degli operai liberi cadesse al di sotto di un certo livello, il loro rendimento diminuirebbe in proporzione. Si è dunque proceduto alla creazione di un sottoproletariato al quale non si concede, in cambio di un lavoro massimo, che uno stretto minimo vitale. Una soluzione di questo genere non è possibile che in un sistema concentrazionario». Ora Georges indicava sulle carte sparse davanti a lui dei nomi e delle cifre. Karaganda, Zarzikui, Uzbek. Non erano parole, erano pezzi di steppa gelata, di paludi, di baracche fradice in cui uomini e donne lavoravano 14 ore al giorno per 600 grammi di pane. Morivano di freddo, di scorbuto, di dissenteria, d'esaurimento. Quando diventavano troppo deboli per lavorare, venivano ammucchiati in ospedali dove sistematicamente erano lasciati morire di fame. «Ma è vero?» si disse Henri con rivolta. Si spiegò sulle ginocchia il grosso rapporto. Le stesse cose che aveva letto distrattamente poche ore prima acquistavano improvvisamente un significato terribile. C'erano là, tradotti in inglese, documenti ufficiali in cui s'ammetteva l'esistenza dei campi. E non si poteva, senza malafede, rifiutare in blocco tutte queste testimonianze, provenienti le une da osservatori americani, le altre da deportati consegnati ai nazisti e ritrovati nei loro luoghi di detenzione. Impossibile negarlo. Anche nell'Unione Sovietica, degli uomini sfruttavano a morte altri uomini. Thank you. Quando Josh tacque, ci fu un lungo silenzio. «Di tutto questo, cosa ne dite?» domandò Scriassin. Dubreuil scosse la testa. «Giudico che nessuno di questi fatti sia seriamente accertato». Scriassin si mise a parlare volubilmente in russo. Georges gli rispose con voce impassibile. «Georges dice che si incaricherà di fornirvi prove decisive. Mandate qualcuno in Germania occidentale. Ha là degli amici che vi daranno tutte le precisazioni sui campi della zona sovietica». «Andrò in Germania», disse Lambert. «E subito». Scriassin lo guardò con aria d'approvazione. Poi si alzò. «Chiedo a tutti il segreto più assoluto sulla conversazione che abbiamo avuto». Tutti assentirono con aria rassicurante. Georges si inchinò con rigidezza e seguì Scriassin senza aggiungere una parola. «Mi dispiace molto di questo ritardo», disse Samazel. «Sul fondo della questione non c'è dubbio possibile. Potremmo pubblicare subito quegli estratti del codice sovietico e questo basterebbe già a sollevare il pubblico». «Sollevare il pubblico contro l'Unione Sovietica», disse Dubreuil. «È proprio quello che dobbiamo evitare, soprattutto in questo momento». «Ma non sarà la destra a approfittare di questa campagna. Sarà l'SRL, e ne ha ben bisogno», disse Samazel. «La situazione è mutata dopo le elezioni, e se ci ostiniamo a voler salvare capra e cavoli, l'SRL è rovinato». «Il successo dei comunisti deciderà molti dubbiosi a iscriversi al partito, e molti per paura si getteranno nelle braccia della reazione. Con i primi, niente da fare, ma gli altri, potremmo averli, se attaccassimo apertamente lo stalinismo e se consentissimo alla ricostruzione di una sinistra indipendente da Mosca». «Strana sinistra che raggrupperebbe degli anticomunisti su un programma anticomunista», disse Dubreuil. «Sapete cosa succederà?» disse Samazel irritato. «Che tra 2 mesi, se va avanti così, l'SRL non sarà più che un piccolo gruppo di intellettuali asserviti ai comunisti, che i comunisti disprezzeranno e manovreranno nello stesso tempo». Henri s'alzò. «Tutta la questione è di sapere se Georges ha detto la verità o no. Per il momento parliamo a vuoto». «È quello che penso anch'io», disse Dubreuil. Lambert e Samazel uscirono con Henri. La porta si era appena richiusa dietro di loro che Lambert borbottò. «È vero che Dubreuil è un venduto. Vuol soffocare la faccenda». Squadrò Henri sospettoso. «Tu sei ben d'accordo che se è la verità bisogna dirla?» «Sì, allora va bene. Partirò per la Germania al più presto possibile e ti giuro che laggiù non perderò il mio tempo». Sorrise. «Ti accompagno in qualche posto?» «No, grazie. Camminerò un poco», disse Henri. S'avviò a passi lenti. Dire la verità. Fin qui la cosa non aveva mai costituito un problema grave. Aveva risposto di sì a Lambert senza esitare. Era stato quasi un riflesso. Ma in realtà non sapeva né cosa doveva credere né cosa doveva fare. Non sapeva niente. Era ancora stordito come se avesse ricevuto una gran botta sul cranio. Evidentemente Georges non aveva inventato tutto. Forse, anzi, tutto era vero. Esistevano campi in cui 15 milioni di lavoratori erano ridotti allo stato di sottouomini. Ma grazie a questi campi il nazismo era stato vinto e si andava costruendo un gran paese che incarnava la sola speranza di 1.000 milioni di sottouomini morenti di fame in Cina e in India. La sola speranza di milioni di operai asserviti a una condizione inumana, la nostra sola speranza. «Dovremo rinunciare anche a questa?» si chiese con timore. Si rendeva conto che mai, fin lì, ne aveva dubitato seriamente. Le tare e gli abusi dell'Unione Sovietica li conosceva, ma questo non gli aveva mai impedito di sperare che un giorno il socialismo vero, quello in cui giustizia e libertà fanno tutt'uno, avrebbe finito per trionfare nell'Unione Sovietica e grazie all'Unione Sovietica negli altri paesi. Se oggi questa certezza l'avesse abbandonato, tutto l'avvenire si sarebbe coperto di tenebre. Da nessun'altra parte, infatti, c'era speranza. Neppure un miraggio di speranza. È fin troppo evidente che la rivoluzione si farà con l'Unione Sovietica o non si farà. Tuttavia, se l'Unione Sovietica non ha fatto che sostituire un sistema di oppressione con un altro, se ha ristabilito la schiavitù, come conservarle la minima amicizia? «Forse il male è dappertutto», si disse. «Se il male è dovunque, non c'è uscita, né per l'umanità, né per se stessi. Si sarebbe dovuto arrivare a questo». Ero piena di gioia e di curiosità la sera in cui atterrai all'aeroporto La Guardia. New York, Chicago, St. Louis, New Orleans, Philadelphia, di nuovo New York, Boston, Montreal. Un bel giro, ma avrei dovuto avere il modo di profittarne. I miei colleghi mi avevano dato indirizzi di gente del posto che si sarebbe fatta un piacere di mostrarmi la propria città, ma si trattava esclusivamente di medici, di professori, di scrittori, e io ne diffidavo. A Chicago aprii il mio taccuino. Lewis Brogan, scrittore. Era forse meglio di niente. Cercai un telefono, dissi a questo Brogan che ero un'amica dei Benson, che forse gli avevano scritto per annunciargli il mio arrivo. D'accordo, sarebbe venuto a prendermi al mio albergo alle 2 del pomeriggio. Ma no, passerò io da voi, dissi, e riappesi. Odiavo il mio albergo, il suo odore di disinfettante e di dollari, e mi divertiva prendere un tassì per andare in un posto definito a trovare qualcuno. Il tassì traversò ponti, rotaie, depositi, seguì strade in cui tutte le botteghe erano italiane. Si fermò all'angolo d'un viale che odorava di carta bruciata, di terra umida, di povertà. L'autista mi indicò un muro di mattoni dal quale sporgeva un balcone di legno. «È qui!» Bussai. Aprì un uomo piuttosto giovane, piuttosto alto, dal busto irrigidito in un giaccone di cuoio. Mi squadrò sorpreso. «Avete trovato la casa?» «Mi sembra». Una stufa nera ronfava nel mezzo d'una cucina gialla. Il linoleum era coperto di vecchi giornali e notai che non c'era frigorifero. Brogan indicò i giornali con un gesto vago. «Stavo mettendo ordine». «Spero di non disturbarvi». «Ma no. Perché non avete voluto che venissi a prendervi al vostro albergo?» «È un posto orribile». Brogan abbozzò finalmente un sorriso. «È il più bello albergo di Chicago». «Appunto. Troppi tappeti, troppi fiori, troppa gente, troppa musica, troppo tutto». Il sorriso di Brogan s'allargò dalla bocca fino agli occhi. «Entrate di qua». Vidi prima la coperta messicana, la sedia gialla di Van Gogh, e poi i libri, il pick-up, la macchina da scrivere. Ci si doveva sentir bene in questa camera che non era né lo studio d'un esteta né il prototipo della bella casetta americana. Dissi con slancio, «È piacevole qui da voi». «Trovate?» disse Brogan interrogando i muri con lo sguardo. «Non è grande». Ci fu un silenzio. Poi disse con precipitazione, «Non volete togliervi il cappotto? Che ne direste di una tazza di caffè?» Dissi con fermezza, «Mi piacerebbe vedere Chicago, parto domattina». «Chicago è grande». «Mostratemene un pezzetto. Andiamo a spasso per le strade». C'erano molte strade e si somigliavano tutte. Dappertutto faceva freddo. Entrammo in un bar e ci mettemmo a chiacchierare. Brogan era nato a sud di Chicago, da un piccolo bottegaio di origine finlandese e da un ebreo ungherese. Aveva 20 anni all'epoca della grande crisi e aveva vagabondato attraverso l'America nascosto in vagoni merci. Aveva scritto una novella che una rivista di sinistra gli aveva pubblicata. Allora ne aveva scritte altre. Dopo il successo del suo primo romanzo, un editore gli passava un mensile che gli permetteva di vivere. «Mi piacerebbe leggerlo, questo libro», dissi. «Il prossimo sarà migliore». «Ma questo è scritto». S'alzò e si diresse al telefono in fondo alla stanza. Tornò dopo 3 minuti. «Il libro sarà al vostro albergo prima di pranzo». «Oh, grazie», dissi con calore. La vivacità del suo gesto m'aveva toccata. Era questo che me l'aveva subito reso simpatico, la sua spontaneità. Ignorava le frasi fatte e i riti della cortesia. Le sue premure sapeva improvvisarle e somigliavano alle invenzioni della tenerezza. Quando, uscendo dal ristorante, mi prese il braccio per aiutarmi a camminare sul terreno ghiacciato, il suo calore mi parve subito familiare. «Andiamo, bisognerà bene che vi faccia vedere qualche pezzetto di Chicago», disse. Ci sedemmo in un burlesque a guardar donne che si spogliavano in musica. Ascoltammo musica di jazz in una piccola sala da ballo per negri. Bevemmo in un bar che somigliava stranamente a un dormitorio pubblico. Brogan conosceva tutti. Il pianista del burlesque dai polsi tatuati, il cornettista negro del dancing, i vagabondi, i negri e le vecchie sgualdrine del bar. Li invitava al nostro tavolo, li faceva parlare e mi guardava con aria felice vedendo che mi divertivo. Quando ci ritrovammo per la strada, dissi con slancio, «Vi debbo la mia migliore serata americana». «Avrei voluto mostrarvi tante altre cose», rispose. La notte finiva. Tra poco sarebbe stata l'alba e Chicago sarebbe scomparsa per sempre. Dissi, «Un giorno. È stato troppo poco. Bisognerà che torni». «Tornate», disse Brogan e aggiunse in fretta, «Non voglio pensare che non vi rivedrò più». Continuammo a camminare in silenzio fino alla stazione dei tassi. Quando avvicinò il suo viso al mio, non potei fare a meno di voltare la testa, ma sentii il suo alito caldo sulla bocca. Qualche ora più tardi, nel treno, mentre tentavo di leggere il suo romanzo, mi rimproverai. È ridicolo, alla mia età. Ma avevo ancora la bocca commossa come quella d'una vergine. Tornerò, mi dissi con decisione. Valentina Carnelutti ha letto I mandarini di Simone de Beauvoir, regia di Anna Antonelli, riduzione di Chiara Nicoletti, a cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it